Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. E Kappa, a volte devo dare ragione a te sul fatto che l'infantilismo, che io sempre deploro, può anche essere creativo. Vedi? No, perché io ho sempre guardato con un po' di sospetto l'iPad, l'iPhone, perfino l'iPod. Vecchio, antico. Vabbè, cosa devo dire? Arcaico. A me sembravano dei gadget costosi per bambini viziati, cresciuti, e pensavo che facessero diventare stupidi rendendo tutto troppo facile a portata di mano. Sai, no, la teoria di Google ci sta rendendo stupidi. Ecco, quella roba lì. No. Non la so. Comunque tu sei stato rovinato dall'educazione cattolica. Il peccato originale, il senso di colpa, l'inginocchiatoio, tutte quelle robe lì. Invece ho scoperto che il mobile, i mobile sono strumenti che stanno cambiando la vita ai meno dotati. Certo, Steve Jobs pensa anche a te. E meno male, perché insomma per una volta un marchingegno pensato per un target fighetto sta risolvendo dei problemi a persone che non sono fighette per niente, ma che in compenso hanno problemi gravissimi. Nemmeno la Apple se lo aspettavano. Adesso le applicazioni specifiche per gli handicappati si stanno moltiplicando e costano anche poco. È viva. Quindi anche noi qui a Chiedo Asilo adesso abbiamo fatto una radio touch interattiva. Insomma, per gli handicappati, insomma. Sì, più o meno. Ecco a voi, bambini, una meravigliosa fiaba interattiva. A prova di stupido, Drago. Cari bambini, benvenuti nel mondo della radio fiaba interattiva. L'unica fiaba che potete inventare voi. Sarete voi infatti a decidere il destino dei personaggi, regalando loro un bel lieto fine, ma solo se se lo meritano. Vediamo insieme come fare. È semplicissimo. Quando sentirete, potrete scegliere se far proseguire il racconto nella direzione oppure nella direzione, ma non nella direzione che può essere scelta solo dopo un oppure un. Attenzione però, se nello svolgersi della storia doveste incontrare un o una, tornate subito indietro fino a quando vi segnalerà che il pericolo è scampato. Fate in fretta, altrimenti ritornerete al punto dove un altro vi farà ricominciare dal. Tutto chiaro? Bene, possiamo incominciare. C'era una volta uno speculatore edilizio che camminava. Martedì è il giorno del talento, anzi del talent show più ascoltato della radio. E come? Bambini, pronti ad accogliere con grande entusiasmo un nuovo episodio di... La gara tra Seba e Dini ormai è arrivata alla fine. Questo è il penultimo appuntamento con Morgan e con i nostri piccoli divi della musica. Allora, da casa continuate a votare, mi raccomando, e mandate le vostre preferenze a chiedoasilo@radio24.it oppure sulla bacheca del profilo Facebook dell'Istituto Barlumen. Sì, Kappa, i nostri piccoli radioascoltatori stanno continuando a votare copiosamente, ma votano sempre per il mio artista Seba. Sì, però io non temo niente, perché anche all'ultimo potrebbe esserci il sorpasso. Tra oggi e martedì prossimo Dini potrà tranquillamente recuperare e anzi, secondo me, vince. Vabbè, io direi di leggere qualche mail arrivata fresca. Allora, la prima dice: ero tentato di venire in aiuto a Dini, ma la versione di Pippi Calzelunghe è troppo bella, voto Seba, Giacomo. E quindi... Giacomo però aveva già votato per Seba la settimana scorsa. Può farlo, io non so se si può fare. Sì. Sono sempre gli stessi quelli che votano Seba. Vabbè, quindi i voti bisognerebbe... Anche quelli che votano per Dini, anzi quelli che non votano per Dini. Nessuna traccia, guarda, nessun voto per Dini. Ma come no? Scusa, Alberto Cantaloni dice che vota per Dini. Sì, però la mail è del 1 ottobre, non barare, scusa. Vota per Dini. Vabbè, ripetiamolo ancora, così che anche uno stupido, anche Ivan Bogdanov, anche lui lo capisce. E magari lui vota Seba. Se gli garba può votare, perché Seba? Seba, vabbè, sai, Ivan Bogdanov. Vabbè. Te lo vedi che vota Dini. Invece vota Dini, Ivan, vota Dini dal carcere. Dovete mandare una mail per Seba o per Dini a chiedoasilo@radio24.it. Ma adesso entriamo nel vivo della nostra gara. Ivan, vai sulla balaustra, prendi le tenaglie e vota Dini. Curatevi le orecchie, perché la gara più eccitante della radio italiana sta per cominciare. Energia e sentimento si scontreranno al sesto appuntamento con Kid Factor. Sesto appuntamento del nostro talent show Kid Factor. E oggi Dini finalmente, diciamo, varca i confini del rock and roll, va nel reggae e ci presenta questa incredibile versione di Stir It Up di Bob Marley. è un emo di 7 anni e si presenta con una canzone che indurgitirà gli animi. Con barba, baffi e dreadlock, ecco a voi Didi! Le intro Dini le fa sempre. Sono bellissime le intro di Dini, devo dire. Dini è un grande arrangiatore, prima di tutto. Little darling, stir it up. Ma infatti perché non fa l'arrangiatore? Little darling, stir it up. Secondo me è un bravissimo arrangiatore questo, gli faccio arrangiare il mio prossimo disco. Speriamo, secondo me. Little darling, stir it up. Ma sentite adesso, ma per favore, silenzio, sentite up, l'ultimo up che dice, perché è tutto lì. Little darling, stare it up. Ah, bello, certo, è compresso. È vabbè, bella, dai, era bella la canzone originale, bella anche questa versione. Vabbè, invece vabbè, sentiamo, cosa ci sentiamo la prossima, quella del mio cantante, Seba, da Albarè, provincia di Verona, canta E io sono cattivo. È un punk di 6 anni e oggi dichiara guerra a tutti con un brano manifesto sulla cattiveria e la redenzione. Ecco a voi Seba! Ukulele. Senti il testo. E io sono cattivo. E io sono scemo. E io sono stupido. E io sono bravo. Vedi, c'è la redenzione finale. Io sono bravo. Sì, è vero. Anche qui stavolta hai avuto l'aggiunta di questo stranissimo strumento. Di Morgan. Sì, è un diapason a fischietti. È un diavolo. È un diavolo. È un diavolo. Allora, Stir It Up, diciamo manifesto reggae contro E io sono cattivo. 70, io sono cattivo, invece che può richiamare Sono cattivo della Candegina Gang. Quindi non so se... Sì. Però adesso invece il giudice Morgan ci illustrerà, anzi ci spiegherà le due canzoni affinché i nostri ascoltatori possano votare. Beh, allora, con granu salis. Devo dire che è l'ultima prova questa. È la penultima. È la penultima. Ho comunque già una visione generale, proprio perché diciamo che spiccano queste differenze sostanziali. Dini è decisamente superiore come arrangiatore. Seba è un, se vogliamo, un minimalista, però che è troppo, troppo scarico di idee, cioè non ci sono. È un espressionista. Sì, è un espressionista, però come lui, diciamo che è troppo concettuale. Non ha a che fare con la vera richiesta del popolo, che è quella di ascoltare della musica. E la musica non può essere solo ragionamento, deve essere anche sentimento, e in questo caso citeremo anche Simone Ventura, emozione. Quindi, deve arrivare, deve arrivare. Anch'io la pelle d'oca. La pelle d'oca. Quindi io noto questa grande distanza, però sono due generi, non ho espresso un giudizio di valore in qualche modo, perché aspetto l'ultima prova. Se Morgan può aspettare, voi fareste meglio a scrivere subito una mail a favore di Seba o a favore di Dini a chiedosilo@radio24.it. Torniamo domani e mandate i vostri a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.